Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus all'interno di una cellula renale. L'hanno fotografata per la prima volta in Europa i ricercatori del Mario Negri di Bergamo. A Obiettivo Salute la dottoressa Ariela Benigni, coordinatore delle ricerche e segretario scientifico dell'Istituto di Ricerca. Il nuovo coronavirus non colpisce solo il polmone, ma anche altri organi, tra cui il rene. E il 30% dei pazienti gravi che sviluppa anche insufficienza renale, che talvolta è fatale. Tutti noi nella comunità scientifica pensavamo che il danno al rene fosse una conseguenza del danno al polmone. Invece l'aver osservato e documentato che il virus è presente nel rene dimostra che ci può essere un effetto diretto di danno del virus sulle cellule renali. In particolare l'abbiamo osservato in cellule che compongono il filtro renale, che smette di funzionare bene e quindi si ha una insufficienza d'organo. Ma la cosa positiva non solo è quella di aver trovato il virus nel rene, ma anche perché grazie agli studi che abbiamo portato avanti da tanti anni noi sappiamo come proteggere il rene dalle alterazioni che vengono, che possono essere indotte da vari stimoli e in questo caso anche dal virus. Quindi potremmo in una prospettiva avere una cura per prevenire il danno e forse anche il danno al rene dal coronavirus. Gestione della cefalea nel bambino, possibilità diagnostiche e nuovi scenari terapeutici. Questi sono alcuni dei temi che sono al centro della 12ª edizione della giornata del mal di testa che si celebra proprio domani. A Obiettivo Salute il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Il tema della cefalea non è mai abbastanza sufficientemente enfatizzato, e anche nel bambino le statistiche stanno a dimostrare come la prevalenza del disturbo nei nostri ragazzi, nei nostri ragazzini tende a salire, complice anche uno stile di vita non corretto. Durante la celebrazione della giornata delle cefalee ci saranno diversi focus per dimostrare come sia un fenomeno che ora si sta cercando di censire in maniera sempre più precisa, evitando gli esami inutili, e sono la maggior parte, perché ci sono trattamenti farmacologici per prevenire l'attacco con anticorpi monoclonali e prossimamente anche per bloccare l'attacco con i cosiddetti ditani, che aprono prospettive nuove, sempre più selettive, sempre più tollerabili, sempre più in linea con questo che è un disturbo puramente neurologico. La emicrania è una malattia dell'essere umano che nasce nel cervello, non è dovuta alla sinusite, all'artrosi cervicale o ai cibi, come tante persone finora hanno creduto. È una sensibilizzazione fondamentale che si rivolge al largo pubblico anche tramite le pagine Facebook e che deve servire a fare in modo che questo disturbo che colpisce le persone nel periodo di massima produttività, specie donne, non chinino la testa. Alzare la testa è lo slogan che vogliamo utilizzare. Per oggi è tutto, domani vi aspetto alle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend, domenica per la bufala in tavola. Buona giornata da Nicoletta.